8 storie dentro gli anni di sta vita. Tra panette e grammi in tasca, tutto insieme ad un tanita. Smazzavo in casa zio e non solo per strada. Tanto nello stesso modo la sostanza ti ripaga, facendolo per forza, a volte per bisogno, affinché ogni mia speranza non rimanga solo un sogno. Spacciando, lavorando, senza mai effettuare scioperi, perché strada in sta città è contrada e non metropoli. Panetto in cambio grano, basta un gesto e poi il piacere, perché in busta quell'onesto non ti paga mai dovere. Passaggio a passamano, conteggio per il cash. No, non vengo da Milano e non sono Marrakesh, tanto meno Fabri Fibra, non permetterti o ti inchiodo. Nemmeno appartengo alla gang dei Club Dogo, perché smuovo da solista, da lupo solitario. Nulla perdo mai di vista, perché vedo ciò che svario. Con le rime io t'ammazzo, sempre aggiorno il mio diario. Tu non hai capito un cazzo, la mia vita è un questionario. Fra, io non sto bleffando, sto narrando storie serie. E se tu non credi a me, metti i piedi nel quartiere. Dal posto in cui provengo è una città del cazzo, che in confronto con il Duomo sembra un punto nello spazio. Ma anche qua la gente mormora e ci sono pareti strette. Lo sgammi al volo, il pusher dove imbosca le panette. Cambia street in antisgamo quando incrocia due vecchiette. Senza perdere occasione ci scippa le borsette. Poi correndo i 100 metri, sfiga vuole, cazzinazzi. Messo in riga, derubato, pestato, fatto a pezzi. Ma io manco ci guardo e rimango nei miei cazzi. Rimando tra ste mura, in mezzo a sti palazzi. Vai rapper di paese, welcome. Welcome to Alessandria, welcome. Inferno fiamme accese, welcome. Mangiati dalla rabbia, welcome. Ti diamo il benvenuto, welcome. Deserto senza sabbia, welcome. È qui che sono cresciuto, welcome. Da schiavo in questo buco. Adesso avrei ferrato, dov'è che son cresciuto? Amico, te l'ho detto, in questo ghetto sei fottuto. Qua la differenza è poca, con la gente in primo piano. Anche qui si fuma coca e ci si spara alla soprano. Con le guns qua si gioca in un regno di suspense. Ti rassegno fra demoni, troie infami e pure trans. Il messaggio è recepito, beta accetto caro Cico. Mentre se fosse l'inverso, fissa dritto il medio dito. Te l'ho fatto sto discorso, ma so stufo di parlare. Fai il tuo corso a fare in culo, se il rispetto non sai dare. Quindi statene tranquillo, sciallato e rilassato. Tanto prima o poi torniamo come ombre dal passato, ripetendo un'altra volta quel che appena scritto e detto. Guardando dritto in faccia te, distrutto dal mio effetto. Devastando questa traccia con i rapper vetro e scotch. Dando calci a chi si spaccia sempre in breccia nell'hip hop. Scrivendo sta canzone e sentendo questo suono, così spiego a tutti voi da dove vengo e chi io sono. MC Breeder io mi chiamo, sempre seguo ormai sul fango. E da leader vi sfidiamo, a te tutto il tuo rango. Di voi voi di Milano, che del rap la capitale. E a voi lì di Torino, con le vostre storie strane. Io vi invito nel mio mondo, sì, vi invito in Alessandria, dentro a sto basso fondo e in mezzo a questa mandria. Dai, vieni che t'aspetto, tu e tutta la tua gang. Per me, con te rispetto, me ne fotto dei tuoi slang. Bei rapper di paese, welcome. Welcome to Alessandria, welcome. Inferno fiamme accese, welcome. Mangiati dalla rabbia, welcome. Ti diamo il benvenuto, welcome. Deserto senza sabbia, welcome. È qui che son cresciuto, welcome. Vai, mo ti saluto. Dai, chiudi la zava.